Ciao, man. What's up? Se mi sento di darti un po' di consigli è perché un po' mi assomiglio. Voglio che tu ti ripigli qua. Non provo gusto a lottare coi debosciati. Mi rimbocco le maniche e regalo parte di arsenali. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Sono guaglione nato in mietà lì. E mai che ci passate poi sapere soltanto di mie sassi. Dico che cammino tutte i giorni. Trovo sempre più forza che sempre ritorno. E care poi ma è dalle vie di Bera, ma a tuo parte. Credevo di poter contare in un qualsiasi istante sulla tua presenza. Restarne mani assenza e coerenza dalla partenza. Ti ho dato confidenza, ora ho preso coscienza che di gente come te talvolta è meglio starne senza. Fendo l'aria con un colpo, statemi lontano se no vi prendo a morsi in testa come il polpo. Ho sulla spalla questa scimmia che vive troppo larga, come neppure Bassi con i suoi gorilla. Sono il rapper più biblico del re, sulla schiena quale scimmia io c'ho l'arca di Noè. Se vuoi parli di rap c'è chi ha merci che peste, chi solo fuffa. Il mio CD è scanchi, il tuo buffa. Starete pensando va bene però l'ammetti, ma io mi trovo a mio agio tra i maledetti. Cerco di darmi una regolata ma quest'auto è risultata scarturata già dall'avvio. Mi incanta il giocoliere della strada, narra e canta. Occhi e menti chiusi se rimani nella banda. Parola santa, fanculo tutti manda. Usanze e storie che tramanda. Ho fatto gavetta, mosso passi senza freccia. Chiudevo rime prima di leccare figa o sigaretta. Mo ci espandiamo prendendoci nuovi spazi. Siamo la nuova Torino che dà fuoco ai vecchi scacchi. Cumulo esperienze, riverso dentro il sacco. Pronto per reagire se posso davanti uno smacco. È il mio karma che si esprime. Il beat della scintilla, il ghiaccio non le rime.